22:52 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 della banda romana e laziale. Ci siamo. Lo proviamo subito. Tu ci sei? Su quale dei microfoni? Io ci sono. Col cavolo, aspetta, eccolo. Aspetta, vai un po'. Ci sono e ci faccio. Oh, eccoci qua, perfetto. Sì, inizio un po' travagliato, ma perché è una puntata travagliata? Ve l'avevamo promesso, ovviamente ci abbiamo avuto delle assenze. Allegro con fuoco è passato con ospite, anche con, in compagnia, insomma ci ha fatto piacere, però non è rimasto come non ci aveva promesso, però ci eravamo così un po' accordati. È giustificato, eh? È giustificato, avrebbe dovuto mandarci un po' di cose di tratte, insomma, dalla sua trasmissione, riguardanti ovviamente il tema che ci preme questa sera, che è Festa Nostra. Festa Nostra. Festa d'aprile. Festa d'aprile. Quindi ve l'abbiamo subito svelato, di questo parliamo. Prima però di questo ci aiuterai a fare la marchettona per la radio, perché come sai la radio non vive, non campa d'aria, e non vive tra l'altro un momento felice, perché si sono incastrate una serie di cose, tipo un riassetto societario della radio, cioè la configurazione proprio formale e giuridica della radio deve cambiare, e allo stesso tempo cosa che può comportare o non può comportare spese, ma questo è meno importante perché non è questo che ci preme. Nel frattempo sono venuti meno alcune degli introiti tipici della radio, dei rimborsi che avevamo. Ancora di più succede che, come ben sai, non è facile, Roma è piena di iniziative, quindi non è facile comunque fare dei concerti, delle iniziative, delle serate che siano remunerative per un lungo periodo di tempo. Noi insomma abbiamo bisogno di 30 neanche per un breve periodo di tempo, neanche per un breve. E quindi abbiamo bisogno di... abbiamo calcolato, abbiamo fatto un calcolo proprio, il conto della serva, abbiamo fatto tutte le somme, la somma delle spese che ha la radio, e viene 30.000 euro. 30.000 euro in un anno, penso. Quanto voleva questi altri? 10 milioni all'anno? Non mi ricordo. Ma pure del più. Sai di chi sto parlando? Stai intuendo? Di quell'altri. Volevano 10 milioni euro all'anno per mandare la pizza delle sedute parlamentari. Onorevoli consiglieri, esatto, attenzione. Esatto. Era bellissimo. Per l'insonnia era stupendo. Esatto. Perciò niente, noi 30.000 euro sono proprio zero rispetto. E soprattutto non ci fate sentire dirette dal Consiglio Comunale. Assolutamente. No, ma io sto parlando di quell'altri ancora. Ah, quelli di quell'altri. Sì, quell'altri proprio che adesso stanno. Ah, vabbè, ma quelli no, quelli sono 40 anni. Sì. Cioè, sì, quelli... però stanno a chiudere pure loro, insomma. Ah, pure loro. Sì, stanno. Quelli che gli è stanno morto indicando... quello da poco tempo fa, pochi giorni fa. Quello che parlava tanto. E parlava tanto. Esatto. Parlava troppo. E per cui niente, insomma, 30, mettetevi la mano al portafoglio. Molti e molte di voi l'hanno fatto già. La quota a cui siamo arrivati è una quota importante, 30, ma non è per 1000. Non è ancora sufficiente. 30 euro all'anno per 1000 persone permettono di stare la radio tranquilla. Per diciamo, 1000 compagni. Non gliela diamo vinta. Non gli famo di che siamo Ducati. Almeno 1000. Almeno 1000, e poi se siamo di più, viene anche di meno. Cioè, più offrite siamo. La cena. Sì, esatto. No, ma poi più siamo, più siete a sostenere la radio, e più la quota diventa, la cifra diventa assolutamente ridicola. Anche perché poi. Cioè, ci metto la mia esperienza personale, del mio, se non cacciate fuori sti soldi, a me tutte le mattine quando vado al lavoro mi tocca sentire quell'altra radio. No, ti prego, quella che mi fa gli speciali sulle balene che non suonano il jazz. No. Brutta radio, pessima radio. No, tra l'altro, ecco, vedi, arrivano i trilli. 0649 1750, Radio Onda Rossa, ve l'abbiamo detto. Comunque andate sul sito www.ondarossa.info, invece delle baggianate che diciamo noi ci stanno scritte le cose serie. Mazzo. Onda Rossa, ci stanno scritte le cose serie, su che non abbiamo scritto noi, che non abbiamo scritto noi, le leggete per filo e per segno, capite come funziona la cosa e sottoscrivete per la radio. 61 80 40 01, il numero conto corrente postale per chi non voglia fare la sottoscrizione con i metodi questi moderni nuovi, il crowdfunding eccetera eccetera. Esatto, da intestare come idea culturale al Borderio 2001, 00185 Roma, via dei Volci 56, San Lollo, 06491750, ma ci sembra che lo sapete, in compagnia di Marco P38 Punk. I 9 anni di lotte disorganizzate. Di lotte disorganizzate a festeggiare la nostra festa. Tutti al suono della baiana, vien da lontano un canto così accorato, è un minatore bruno laggiù emigrato. Canzone pare d'un esiliato. Cielo di stelle, cielo colore del mare, tu sei lo stesso cielo del mio casolare. Nessuno. abbiamo iniziato così per vari motivi. Innanzitutto Hardcore, che hanno fatto un bel lavoro di ripubblicazione, di ricerca, di, in questo caso il brano è Miniera, però proprio un lavoro da minatori, nel andare poi a riscavare nella tradizione italiana del Novecento, di tutto il Novecento, questo brano in particolare del 1927. Quindi sono andati a trovare, scovare, riproporre, in questo caso con Geoff Farina, insomma pure con comunque l'ausilio, come? Archeomusicologia. Hardcore che suoneranno per la radio, non vi diciamo ancora come, non vi diciamo ancora perché, comunque suoneranno per la radio in una delle tante iniziative che stiamo preparando proprio per sottoscrivere per la radio. E abbiamo voluto iniziare con questo Miniera, appunto un brano del 1927. Allora, da scemi, cioè non diremo delle note storiche ogni tanto, qualche cosa che potrebbe quasi sembrare serio, non lo prendete però troppo, perché magari il tono sarà serio ma invece dietro c'è la bufala, oppure viceversa, magari scherzando diremo delle cose anche serie. Perché la Raggio è sindaco di Roma, quindi noi possiamo di tutto, fare tutto ciò che vogliamo. Voleva fare la teleferica a bufalotta, esatto. Utilissima, sì, sì. Però da prendere solo quando nevica, quindi una volta all'anno ovviamente, no? Nei bisestili anche ogni 4 anni. Ogni 4. Però era questo lavoro qua, questa traccia in particolare, questo canto del 1927, perché racconta appunto di storie di misere persone che sono costrette ad emigrare e che vanno a lavorare in miniera. Fa capire un po' com'era l'Italia, in questo caso il 1927, cioè quell'Italia che era ormai nell'era fascista vera e propria, e di quanta povertà ci fosse prima, ovviamente nel post prima guerra mondiale, quindi in un periodo in cui di grande disillusione, soprattutto del fatto che una generazione intera era stata sradicata dalle campagne e dalle fabbriche e costretta ad andare a fare una guerra sanguinosissima e inutile. Diciamo poi all'atere di tutto questo c'avevamo una borghesia sabauda, paragonabile a una nobiltà vittoriana in chiave minore, perché noi eravamo la più sfigata delle monarchie d'Europa, certo. Che è ben contenta di assumere il fascismo, che all'epoca non era neanche un partito, erano i fasci da combattimento, certo. Cioè un'associazione di picchiatori privata, sì, che andava a sgomberare fabbriche, in sciopero. C'è un film che a te non piace, che però descrive bene questa cosa, che è il 900 di Bertolucci. Perché mi piace? Te mi dicessi, no, non eri te, no, che non ti piace. A me non mi piace te. Fellini. No, hai ragione, era un'altra persona che mi diceva che il 900 di Bertolucci, che non gli piaceva Bertolucci. Ah, a me piace addirittura il cinema didattico di Rossellini, figurati. Va bene, però insomma, potremmo di questo aprire delle cose che so che non andremo a finire, ma abbiamo preparato delle tracce. Leopoldo Mastelloni. No. Invece no, perché dato che è la festa nostra non possiamo che iniziare. Vedi, hanno drillato, vanno Leopoldo Mastelloni. Non lo manderemo mai Leopoldo Mastelloni. Vedi come trillano? Già da qualche tempo che i nostri fascisti si fanno vedere poco e sempre più tristi. Hanno capito forse, se non son proprio tonti, che sta per arrivare la resa dei conti. Quando un repubblichino omaggia un germano, alza la mano destra al saluto romano. Ma se per caso incontrano i partigiani, per salutare alza entrambe le mani. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile. Nera camicia nera che noi abbiamo lavata, non sei di marca buona, ti sei ritirata. Si sa, le mode cambiano quasi ogni mese,

barricades spring up from nowhere. Cops in helmets line the lines. Shotguns prod into your bellies. The trigger fingers want an excuse. Now! Raging mob has lost its nerve. There's more of us, but who goes first? No one dares across the line. The cops know that they've won. It's all of our mind. That's why the victims just keep getting the fight. They cut your hands, get your teeth, points to my bones and blaze. Ah! Allora, abbiamo sentito White Riot, però non quella dei Clash. Il titolo uguale. La... Non era Leopoldo Mastelloni che la interpretava. Leopoldo Mastelloni, ma vabbè, l'avrete riconosciuta. Era Gallo Biafra e Dead Kennedys. Ovviamente White Riot in versione californiana con un video bellissimo sottotitolato in spagnolo. E invece adesso abbiamo Demented Ergo, Surfride Oblivion, DCD. Beh, pure questi sono una scoperta abbastanza. Poi vado in ritardo, scopro le cose a scoppio ritardato. Diventa Dargo, girano una cifra di anni. Però siccome io ho una repulsa per la, quasi totale per la tecnologia, finché una cosa non mi capita su vinile, per me non esiste. Okay. Quindi mi sono capitati un paio d'anni fa su vinile. E quindi ho detto, Si è aperto un mondo. Tra un po' arriverò ai CD, eh. Stiamo parlando sempre di 25 aprile, però ci arriveremo perché vedo che io ti sto pedissequamente seguendo nella tua creatività, vedo che piano piano mi ci stai arrivando e tra l'altro a sorpresa secondo me ci prendi alle spalle con la faccenda della festa nostra. Allora, da capo di Demented Ergo, Surfride Oblivion, da capo. non ci siamo stasera, dai, è tutta così. Prendetela come radio senza messaggi. Ci prendiamo un attimo di pausa mandando tra l'altro Majakowski sotto, però non è Majakowski questa, infatti, vedi, vedi, vedi, vedi. Allora, da... No, no, no, no, no, da capo la numero 8 però, eccola qua. Tranquilla, lenta. Sì, leverò in aria tutti e 100 i miei tomi di partito. Non è questa. Però è Majakowski. È Majakowski. Ma è, ti dico, le 4. Pesanti come un colpo. A all'amato ciò che se è stesso Cesare. Dedica e queste righe l'autore. Ciò che è di Dio. Tratto liberamente da. Allora, antifascismo. Antifascismo, e abbiamo mandato, odio tutti, la giusta, il giusto grado 70, 77 style per... Senti Simone, che saluto, salutiamo. Salutiamo. Anche loro suoneranno. Io lo saluto più di te. Va bene, va bene. Intanto lui sa che lo saluto. Lo salutiamo sovente da queste parti. Le onde nell'alta marea, sino a sfiorare la luna, dove trovare un'amata uguale a me. Angusto sarebbe il cielo. Perché abbiamo parlato di... Vuoi sentire Majakowski? Sì, vuoi sentire Majakowski? Tanto lo sentirò. Ti vedo che lo vuoi sentire. Anche perché amo Majakowski, il poeta, so, quello vero. Lo so. Povero come un miliardario. Ma che cos'è il denaro per l'anima? È un ladro insaziabile, si annida in essa all'orda di tutti i miei più sfrenati desideri. Non basta. Potessi balbettare come Dante o Petrarca. Accendere l'anima per una sola, ordinarle coi versi di bruciare. Le parole del mio amore sarebbero un arco di trionfo e pomposa di inutili li passerebbero le amanti di tutti i secoli. Dei secoli. Dei secoli. Silenzioso come il tuo. Gemerei abbracciando in un tremito il decrepito eremo terrestre. Urlerò con la mia voce immensa. Le comete torceranno le ali fiammeggianti e giù si getteranno a capofitto per la malinconia. Coi raggi degli occhi rosicchierai le notti. Se io fossi buio come il sole, ma perché? Ma perché mai dovrei io abbeverare con il mio splendore il ventre dimagrato della terra? Porterò via con me il mio amore immenso. In quali notti, quali malattie, da quali golia fui E allora ci siamo sentiti un bel po' di Teatro degli Orrori, partendo da Majakowski e andando avanti. Voi. Stiamo lavorando per voi. E di là, quando è 23:31 minuti primi, quindi manca mezz'ora alla festa nostra, e Linea Gotica, CSI, quando ancora... Quando era così carino, quando era Giovanni così, era così carino. Libero di testa. E ben vestito. Tra l'altro ne approfitto per salutare Danilo, che lo posso dire, tanto ormai abbiamo ufficializzato, a ottobre sarà di nuovo a Roma. Sì, ma comunque è una cosa, sì, lo possiamo dire come super anteprima, comunque avremo modo poi di risentirci per ottobre, a quanto ho capito, i primi di ottobre. Una serata di punk filosovietico, P38 Punk, Danilo Fatura, Elena Velena. Saluto tutti e due. E ho detto tutto. Dell'anno 1944. Anche la disperazione impone dei doveri e l'infelicità può essere preziosa. Non si teme il proprio tempo, è un problema di spazio. Non si teme il proprio tempo, è un problema di spazio. Geniali dilettanti, selvaggia parata, ragioni personali, una questione privata. Geniali dilettanti, selvaggia parata, ragioni personali, una questione privata. Svaliggia casa con Roma e tutti gli devono andare contro. Voi quando è in italiano, vabbè, sto pure zitto sul fatto che è italiano. Per me svaliggia casa, per problemi è che mi svaliggiano casa. Quindi adesso sto fatto che se mi svaliggia casa con Roma e tutti gli devono andare contro. Voi quando è in italiano, vabbè, sto pure zitto sul fatto che è italiano. Quindi su sta cosa sempre bisogna sempre contro la minoranza. A me non mi sta bene che no. Sto pure zitto sul fatto che è italiano. Quindi su sta cosa sempre bisogna sempre contro la minoranza. A me non mi sta bene che minoranza, a me non mi sta bene che no. Perché pare che io la minoranza cambia tutto. Bene che no. Perché pare che io la minoranza cambia tutto. Perché pare che io la minoranza cambia tutto. Perché sembra una minoranza, a me non mi sta bene che no. Perché pare che io la sempre contro la minoranza. A me non mi sta bene che no. Perché pare che io la minoranza sempre contro la minoranza. A me non mi sta bene che no. Perché pare che io la minoranza cambia tutto. Sempre contro la minoranza, a me non mi sta bene che no. Ciro Padano Plumbeo, denso, incantato, incredulo, un canto partigiano al comandante diavolo. Non temere il proprio tempo, è un problema di spazio. Non temere il proprio tempo, è un problema di spazio. Geniali dilettanti, in selvaggia apparata, ragioni personali, una questione privata. Scegliersi da parte dietro la linea gotica. discrimina sempre contro la minoranza, a me non mi sta bene che no, che italiano. Quindi su sta cosa sempre bisogna sempre contro la minoranza, a me non mi sta bene che no, che italiano. Quindi su sta cosa sempre bisogna sempre contro la minoranza, a me non mi sta bene che no. E che pare cario? Boston, not Los Angeles. Proletarian. Religion is the opium of the masses. Vecchio De Treviri, la religione è l'oppio dei popoli. Eh sì. Eppure, no, dalle periferie vengono su buone speranze, vengono su buoni ragionamenti. E non mi sta bene che no. Che poi in fondo il 25 aprile che cos'è? È la migliore parte d'Italia che a un certo punto ha alzato la testa e ha detto no, a me non mi sta bene che no. Oppure che ha scelto da quale parte della linea gotica stare. You sell them a place, but you just hide behind the cross. You just hide. You got your power, and that's your strength. That's what you call a non-real faith. And we know you kept it silent while you committed your violence. Lies, the fuck up blind. Onda Rossa 87.9, guarda chi è ritornato. Come? A volte ritornano. Ti sento, perché adesso andiamo in onda, parli al microfono e ti sento in cuffia. Allora, noi cazzeggiavamo, diciamo, però sotto è andato. Stavamo cantando Leopoldo Mastelloni, sì, in privato. Voi cantavate Leopoldo Mastelloni, io da questa cosa mi dissocio. Però no, invece sentivamo Dante di Nanni degli Eiresis, che è una di quelle cose che ogni volta che la sento racconta un po' gli ultimi momenti della vita di Dante di Nanni, in quel di Torino, quando venne appunto poi ucciso a fucilate da una immane preponderanza di forze nazifasciste, e lui insomma stava sotto questa torre dove si era rifugiato, insomma, e ha sparato fino all'ultima pallottola. Ecco, una cosa commovente, e che ci rimanda a un altro aspetto che fa un po' il paio con quello che dicevamo prima, cioè, e che raccontavamo pure già nello scorso 25 aprile, sempre con te, cioè di come per vari motivi in realtà la resistenza ci aveva un'età anagrafica media piuttosto bassa. Andiamo un po' a analizzare. Poi aspetta, c'erano anche molti adulti, molte persone. Sì, soprattutto poi dopo l'8 settembre c'è ovviamente i partiti, ma anche gli sbandati, quindi quella parte, perché diciamolo, nella resistenza c'erano anche liberali, monarchici, ex militari, quindi che alzavano l'età media, ma diciamo che quelli che facevano il lavoro da officina erano i ragazzi per vari motivi. Uno proprio banalissimo: l'età media in Italia in quel periodo era molto più bassa di quella di oggi. Ci avevano tolto, credo, un ottavo della popolazione d'Amblée sui campi di Russia con le scarpe di cartone. Seconda cosa, proprio questa qui, cioè molti sbandati, molti fuoriusciti dalle truppe regolari, non andarono poi con le truppe badogliane, ma preferirono invece inserirsi nelle file della resistenza, e questo qui in un primo momento. Sì, anche perché poi al nord, quando, e quindi erano giovani in quanto militari giovani. Sì, ma al di là di questo, al nord quando venne il richiamo della Repubblica Sociale, moltissimi, pur di non andare nella Repubblica Sociale, anche perché erano renitenti alla leva, quindi sarebbero stati arrestati, fucilati, deportati in Germania. Quindi l'unica cosa, non è che c'era molto scelta, era scegliere la parte dietro la linea gotica, e appunto rifugiarsi sulle montagne era un po' gioco forza. Non stiamo parlando di cifre enormi, esorbitanti. Quando parliamo di resistenza armata stiamo parlando di 300.000 persone, dicevamo, grosso modo, come poi magari gli operativi. Uomini e donne, è importante questa cosa, perché adesso sta riuscendo, ci stanno anche degli studi a parte, alle donne è stato sempre relegato il ruolo di staffetta. Guarda, questo non è vero, e non è vero anche a partire da una constatazione molto semplice, forse un po' internettiana, diciamo, dalla generazione nostra, cioè stanno uscendo le fotografie dei documenti e ci stanno un sacco di donne che imbracciano il parabello, poi parleremo pure del parabello casomai. Anche la pistola, insomma, quindi non solo staffette, ma che poi in realtà i donne... partigiani avevano a un certo punto anche armamento pesante, tant'è che mi sembra McDouglas, sì, disse, visitando per la prima volta, passando in rassegna le truppe della Garibaldi, anche abbastanza contrariato: se avessimo voluto che voi formaste un maledetto esercito, vi avremmo fornito i maledetti carri armati. Allora, andiamo avanti, poi abbiamo altre cose che ci avevi preparato. Però, forse una cosa soltanto, sì. Visto che abbiamo parlato di donne partigiane, sì. È vero. Visto che abbiamo parlato di donne partigiane, e visto che poco tempo fa è venuta a mancare Tina Costa, partigiana, donna, una che non gli stava bene che no. E che tra l'altro, insomma, aveva anche aperto, cioè abbiamo, questo è un po' l'argomento che avevamo affrontato un anno fa, era proprio il fatto di aver avuto la fortuna, noi come generazione, di conoscere tanti partigiani ancora in vita. Ormai siamo nel 2019, sono passati 74 anni e capite bene che chi nel 45 è nato aveva 74 anni, quindi siamo lì. Però, e questo è un peso enorme, perché se per loro era un peso enorme ricordare, cioè avere il peso di far ricordare e quindi creare questi anticorpi che sono proprio poi dei luoghi, se ci fai caso, l'antifascismo è più radicato, ha una fondamenta più importante nei luoghi dove il fascismo ha agito, in Spagna, in Italia, nel Sud America, ci stanno grossi movimenti antifascisti, ci sono anche ad esempio in Gran Bretagna, e parleremo forse anche di questo. La Gran Bretagna non ha avuto negli anni 40 un regime autoritario di tipo italiano. Paradossalmente ci stanno anche in Germania, dove però di fatto, a differenza Germania, dell'Italia, la resistenza non c'è mai stata. No, c'è stata riducibile a tre la filoni rosa di nera, rosa bianca, Schwarzkapell, Rotkapell. Sì. Di fatto gli intellettuali universitari cristiani cattolici della rosa bianca, quello che restava del Partito Comunista Tedesco con la Rotkapell, che diciamo rimase in cellule dormienti fino alla sacca di Stalingrado, poi cominciò con azioni di sabotaggio soprattutto nell'est della Germania, e va detto la Schwarzkapell, che era un movimento di resistenza di destra, destra liberale, che si rifaceva ai circoli di von Papen, Hindenburg, che di fatto erano gli ufficiali prussiani, gli Junker, che sono quelli dell'attentato della Tana del Lupo. Certo. Sono quelli che ci sono andati più vicino di tanti altri. Certamente. A fare fuori il baffetto. Però diciamo era appunto non elitari. Era elitari, non era un movimento di massa come può essere stato in Francia, in Italia, nei paesi balcanici. E quindi sì, c'è una differenza, mentre l'antifascismo tedesco di oggi è vissuto come una sorta di riscatto da una vergogna storica, certo, che è quella del nazismo. Noi invece è un atto di orgoglio, perché quando gli americani sono arrivati a Milano, Milano si era già liberata. Certamente. E il compito di tramandare questo atto d'orgoglio e di tramandare questa energia enorme che è scaturita dalla resistenza e dalla resistenza di chi l'ha praticata, l'ha messa in atto, è proprio appunto nella memoria che ci hanno lasciato. A noi ci tocca invece di non aver vissuto e tramandare una memoria che ci è stata a sua volta raccontata. Quindi è un'opera ancora più, come generazioni di mezzo, ancora più pesante da cercare di... però appunto... sì, anche perché anche loro che... avevano una vittoria da tramandarci. La nostra generazione purtroppo ha una sconfitta storica sulle spalle. Sì, ci sei, ci sei. Ci dovresti essere. Ci dovresti essere, adesso ci sei di più. Ci sono di più. Sì. No, intervengo su quello che diceva il compagno, che in Germania va bene, sì, diviene fuori da un riscatto rispetto a quello che hanno fatto i loro padri e tutto quanto, però un sano antifascismo diviene anche dalla coscienza di classe che hanno acquisito insomma nel corso degli anni, e non solo dal riscatto, perché insomma i loro padri, i loro nonni hanno fatto quello che hanno fatto in Germania, e quindi insomma forse si è proprio sviluppato una sorta di anticorpo naturale nel momento in cui invece sono usciti fuori quelli che non sono mai stati invece dormienti, che sono stati proprio i nazisti, che invece nel dopoguerra poi hanno trovato delle soluzioni non sempre processuali, insomma molti sono scappati in America direttamente, in America, vedi von Braun, o in America del Nord o in vari luoghi, per cui estirpare il nazismo non è avvenuto immediatamente con la vittoria della guerra, è stato un processo molto più lungo, tant'è vero che non è ancora concluso, insomma. Ci si può ricordare anche delle certe notizie che adesso qua nella stampa nazionale nostra, insomma, per quanto sia, per quanto la conosciamo noi, essere stampa borghese, comunque in Germania ultimamente ci sono state delle grosse manifestazioni antifasciste, appunto. Sì, dicevano di 25.000 persone. Ci dicevano proprio. Per cui dicevano di avanzare manifestazioni di 25.000 persone. Non come le vostre. No, no, aspetta. Fermati. E allora la mettiamo così, senti un po'. Ne Hasimi. C'era l'intanaco, i franchi tiratori, no? E facevano scicchi. ci facevano cazzare. Quando si presero gli si fa gommia da bere a questi necasini, se era l'intanaco, i franchi tiratori, no? E facevano scicchino, ci facevano cazzare. Quando si presero gli si fa gommia da bere a questi. Se fascisti bisogna tu sia imbecille, se non c'è verso tu lo sei. Su comunisti della capitale è giunto ormai il denaro. 23:59 minuti 53 secondi, meglio di Capodanno, meglio di Capodanno, da capo su comunisti della capitale, eccola qua. Aldo dice 26 per 1. Aldo dice 26 per 1. Su comunisti della capitale è giunto ormai il denaro è cosa quando alzeremo su fratonera alle bandiera rossa questa città di vele mai domata dalle rovine dei bombardamenti la guardia rossa suona la durata tutti presenti ventena più di tirania fascista le carcere con fine da bastone non hanno meno mando al comunista la convenzione di una Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza 03 minuti 25 aprile 03 minuti dopo la mezzanotte. Non possiamo che dirvi buona liberazione, libertà a tutti e a tutte. Tutti e a tutte. Soprattutto a chi è privato della propria libertà personale. Poi dannata The Row, comunicato, un basso compressato come pochi. E va detto, quando è partita l'internazionale qui in radio ci siamo alzati tutti e tre in piedi. Io sono quasi piedi. Sempre in piedi, quindi ero già alzato. Io invece che ho il culo pesante, però ho anche i residui di sciatica, mi sono alzato in piedi. Squilli a scatafascio per l'internazionale. Squilli a scatafascio per l'internazionale è anche una richiesta che ci ricorda in un'opera. All'epoca si facevano i concept album, quindi Stormy Six, la fabbrica ce l'hanno chiesta e la mandiamo ovviamente ora. Del 43, nel fango le armate del duce e del re, lontano il suono della sirena, rimbomba la fabbrica di macchine e motori, più forte il silenzio di mille lavoratori. E poi, quando è l'ora, depongono gli arnesi, comincia il primo sciopero nelle fabbriche torinesi. Fabbrica, altre braccia vanno in croce e squillano ostinati i telefoni in questura. Un gerarca fa l'impavido ma comincia a aver paura. La patria e l'impero, sempre più donne vestite di nero, allarmi che suonano in macerie le città. L'11 marzo il giornale a Milano rilancia l'appello, il PC clandestino, gli sbirri controllano, fan finta di sapere, si accende la voglia delle camicie nere, ma poi quando è l'ora si spengono gli ardori, perché scendono in sciopero 100.000 lavoratori. Subito sotto i colpi del mattone, e come a Stalingrado i nazisti son crollati, alla Breda Rossa in sciopero i fascisti son scappati. E questi invece li dovreste proprio vedere. Questi li dovreste vedere. Una versione del Perseverare diabolico. Questa è un'altra versione dell'Internazionale, però fatta dai Tang Dynasty. Che sono? Che so dei Recanati. No, non so dei Recanati. Sono manco dei Castelli, sono cinesi. Cinesi. E sono pure abbastanza, cioè no, nemmeno troppo, sono metallari. Metallari, capelloni, occhiali. Beh, da ricordate sole. Che però noi c'eremo Fratello Metallo, che è un vero frate che fa heavy metal. Fratello Metallo è come Leopoldo Mastelloni. No, Leopoldo Mastelloni bestemmiava. Fratello Metallo no. Oh, ovviamente è cantata in cinese. In mandarino. In mandarino. Oh, siamo entrambi ora, a me non mi sta bene che no, è capiato. Quindi su sta cosa sempre mi sa india sempre con entrambi ora, a me non mi sta bene che no, è capiato. Quindi su sta cosa sempre mi sa india sempre con entrambi ora, a me non mi sta bene che no, è che è sta roba? Compagno che voleva dire una cosa. Sì. No, no, niente, visto che è stato, diciamo, nominato, adesso a differenza tra mandarino e cinese e canton, ma perché il mandarino è cinese. Vabbè, ricordiamo, vogliamo sfoderare queste, stiamo parlando di 1.400.000 persone, quasi due, 1.400, quasi 1.500. Quasi 1.500, ok. E insomma, qual è la differenza? Che cosa è successo? No, praticamente dopo il 49, intorno ai primi anni, tra il 49 e il 53, viene stilato il cinese semplificato. Poi, oddio, se qui c'è qualche sinologo mi darà pure le coordinate temporali precise. O magari ti farà le pulci, perché magari non farà è le pulci. Non è proprio esatto quello che dici, ma io in cinese so dire ni hao tun ze. Pancheggiamo sempre, insomma, quindi. E quindi poi insomma siamo, facciamo così, una cosa punk. Quindi. Vada così. E che doveva praticamente essere una specie di esperanto tra i due principali ceppi del cinese, sono il canton e il mandarino, che a parlare tra loro non si capivano. Certo. Più o meno era come Bossi dopo l'ictus e De Mita invece normale, no? Sì. Parlavano, non si capivano. Due lingue diverse. Due lingue completamente diverse, non li capiamo manco noi, figurate tra loro. E poi c'erano i sottodialetti cinesi, ognuno con una sua letteratura, sue regole, tipo il sardo, appunto. Quindi fu fatta questa cosa. Però diciamo poi, in realtà quello che viene parlato è questo cinese semplificato, invece si parla il mandarino. No, è il cinese semplificato perché intanto è stato comunque imposto con un certo dirigismo. Certo. E secondo i giornali, il quotidiano del popolo è in questo è cinese semplificato. Ascolta una cosa invece, saltando da pane in frasca, questo qui è un fischio il vento, ma chi lo suona? Non lo so, se c'ero dormivo. Asso. Senti come spinge, come pompa. Senti, ma come chi sono questi ragazzi? Un mo compro il disco. È vero, io però non te lo do il mio. Me l'hanno regalato, quindi me lo tengo. Ma se qualcuno mo registra. Dobbiamo chiedere se vogliono i diritti d'autore, chi lo suona, però. Se mi fanno la cassetta, come si diceva una volta. Se mi fanno la cassetta. Se mi fanno la cassetta. Del livello, ogni donna lui domani sospira. Al vento urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Dopo la mezzanotte, 25 aprile, 25 o'clock, la festa nostra. Bene che no. Cessa il vento, calma la bufera, torna a casa il fiero partigiano. Comunque volevo dire una cosa, cioè, pensando... Vedi, visto che stasera ci vengono pure pensieri profondi così. Come quello del caos, non era proprio come quello del caos, no, quello del caos, poi me la rivendo un'altra sì, trasmissione. Sì. La metto ne facciamo per una apposta, ne facciamo una apposta. Sì, sì. Ti invito per caos e punk. Sì. Caos, punk, retromarcia, tutto. Mettiamo tutto dentro. E sostanzialmente pensavo, ma da quando è entrato l'euro in vigore? Scoppiata la bolla, c'è stata la recessione mondiale e tutto quanto. Stavo pensando a... Noi eravamo un paese che esportava manifatturiero, cioè un paese di economia di trasformazione. E di questo ne parlavamo ieri. Fischia al vento. Ne parlavamo ieri. Proprio ieri che mi sei venuto a trovare. Scarpe rotte. Però lo volevo condividere. Bisogna andare. Finito, perché c'è stata la deindustrializzazione, finite quindi la possibilità di esportare beni di consumo, abbiamo iniziato a esportare materiale umano. Dove soprattutto? Qual è la prima meta di emigrazione? Che tra l'altro, diciamolo, l'emigrazione italiana doppia l'immigrazione, cioè quella, quelli che se ne vanno dall'Italia ogni anno sono il doppio di quelli che arrivano. Vanno in Germania. Io pensavo. Sì, anche, ma... anche nel paese della Brexit. Forse prima si è un po' fermata con la Brexit. Sì, diciamo che cosa... no, proprio dati Istat, la meta preferita è la Germania. Ora, volevo fare una domanda, ma spostare la gente in campi di lavoro con la forza della Wehrmacht, o spostare la gente a fare lavori del cazzo sottopagati con la crisi economica e col debito? poi è tanto diverso. Penso che sia diverso il modo, l'effetto finale tutto sommato abbastanza simile. Quindi il vizietto ce l'hanno ancora? Sì, anche se poi parlando con prima proprio con la compagna tedesca, insomma, invece pare che diciamo, ma forse lo è anche allora, insomma, il tenore di vita tedesco in realtà non è proprio da schiavi, anche per chi sì, è il nostro che fa schifo. Esatto. Quindi anche se vai all'estero a fare il lavapiatti e ti danno 2000 euro al mese o anche 1500, che vola, insomma, rispetto te a... certo. Sei come quello che dallo Zambia viene a lavorare a 300 euro al mese. Mi sembra abbastanza corretto. Torna a casa il fiero partigiano. E ovviamente un omaggio a Roberto Fricantoni che ci ha lasciato. Cazzo se ci manca. Tanto tempo fa, e un po' di anni fa, e insomma, ne sentiamo della sua genialità assoluta mancanza. Quindi per il Siam. Sì, dai, tieni sulla bandiera, no? Più in alto, con più energia. Su, che sventoli per Bacco. Più in alto la bandiera, su. Energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli! Col parapetto in spalla caricato a palla, sempre ben armato, paura non ho. Che cos'è il parabello? Quando avrò vinto, col parapetto in spalla caricato a palla, sempre ben armato, paura non ho. Quando avrò vinto, ritornerò. Sì, questi qui, Direttiva 16, non ci sono più da tanti anni, vero? Non ci sono, gli saluto, ti conoscevo. Ti ricordi? E mi ricordo che sì. Il buon Marchetto, chissà che fine ha fatto. Però, insomma, con piacere rimandiamo questa... questa Parabello, che appunto era un canto partigiano. Ligure, per la zona della Liguria, del Piemonte meridionale. E Parabello era un'estensione, quindi un parlare di un fucile in generale, perché anche in realtà se... anche se Parabellum era una pistola di fabbricazione tedesca, quindi diciamo c'è tutta una estinzione del... Che pistola la vogliamo dire? Parabellum 38, quindi P38. Gli arcobi disperati, mezzo massacrati dalle bombe scippe, fascisti sparivano, gridando ai ribelli, gridando ai ribelli. Gli arcobi disperati, mezzo massacrati dalle bombe scippe, fascisti sparivano, gridando ai ribelli, abbiate pietà.

Allora qui abbiamo addirittura la versione remix, no? Danilo Fatur di un celebre hit da discoteca, diciamo. Figa, questo è veramente figa. Trabant Punk Remix Version. Che tra l'altro la Trabant era una macchina figa. No, era veramente all'avanguardia, perché se ci pensi. No, non era figa forse, ma bella non era. Ah, parliamone. Esteticamente non era proprio un mazzo, però era. Esteticamente. È un precursore solamente in tutte le macchine attuali. La cioè Smart. Era una macchina di plastica. Carrozzeria monoblocco in vetro di plastica. Vabbè, mi permetto non di dissentire, però di avere qualche riserva. Motore a due tempi, mi pare. Beh, a due tempi proprio poco inquinante, insomma, una modernità. Ma andava, bruciava olio, che era un piacere. Radio Mosca dice che il partito più non. Data la Trabant, quindi grazie a Danilo Fatur, Partizan, ritorniamo sul seminato. Però non stava dicendo una sempre, cosa interessante. Sempre meglio la Trabant che la Duna. Lo sai che Cuore, per un certo, la ricordate la rivista Cuore? Per un certo periodo organizzò i raduni dei fortunati possessori di Trabant, di Duna, e veniva premiata la Duna più brutta con una caffettiera. Che ci partecipò. Purtroppo non vinse la caffettiera. Un vero trash proprio. Cuore pure, eh. partigiano, entro già con la birra in mano. Fumo qua, fumo là, bevo su, bevo giù, disco disco partigiano. Scoppierà. Disco disco partigiano, entro già con la canna in mano. Fumo qua, fumo là, bevo su, bevo giù. Disco disco partigiano. Scoppierà. Disco disco partigiano, entro già con la birra in mano. Disco disco partigiano, entro già con la canna in mano. Disco disco partigiano, entro già con la birra in mano. Disco disco partigiano, entro già con la canna in mano. Disco disco partigiano, entro già con la birra in mano. Disco disco partigiano, entro già con la canna in mano. Disco disco partigiano, entro già con la birra in mano. Disco disco partigiano, entro già con la canna in mano. Partigiano, entro già con la birra in mano. Fumo qua, fumo là, bevo su, bevo giù. Disco disco partigiano. Disco disco partigiano. Disco disco partigiano, entro già con la birra in mano. Fumo qua, fumo là, bevo su, bevo giù. Disco disco partigiano. Disco disco partigiano. Disco disco partigiano. Partigiano. Partigiano. Un fascista sulla fino a che ci sarà un fascista sulla faccia della terra, ci sarà un buon motivo per essere antifascista. Quarantasei minuti dopo la mezzanotte, che dite? Erode, Erode, innanzitutto questa che non poteva mancare. Che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire? Domani non si va a lavorare perché è festa, è la nostra festa, però è impegnativa domani. Però domani è una giornata impegnativa, quindi per me come tutti i 25 aprile che comincia di 24 il mio 25 aprile. Anzi, io dico che domani più degli altri anni forse è importante esserci ovunque voi siate, siateci. Sì, perché è importante esserci, perché lo ripetiamo da anni, anni, anni, lo ripetiamo sempre, ma non perché vogliamo che ripeti la Juventus o che appunto una cosa debba essere ripetuta all'ossessione per farla diventare vera. Non è questo il nostro scopo. Anche perché poi il nostro antifascismo noi lo rinnoviamo proprio tutti i giorni, tutte le sere, tutte le notti. Anche perché ci abbiamo un fascista al governo. Anche perché, diciamo, fascista al governo è poi tutto sommato un percorso che ci ha portato in questa situazione, che ci ha tanti, tanti attori che hanno verificato questa di destra e di sinistra, che ci hanno portato a questa situazione. Ed essenzialmente la mancanza poi delle lotte, invece, delle lotte spicciole, di quelle proprio per la sopravvivenza, per i propri minimi diritti, per i propri spazi vitali, che è venuto a mancare in questi anni. E chi? Vai. Beh, poi ne parlavamo sempre ieri vis-à-vis. Un conto è che fai il coatto con 40 disperati, 40 stronzi come noi in mezzo al mare. Un conto è che quando ti chiama, cioè, a che fare con le Draghi da potenze, Bruxelles, e già la potenza Europa, insomma. Io so contro il pareggio in bilancio al 3%, ma ti rompe i coglioni sul 2.4 e ti abbassi l'1.8, e beh, lì sei, si chiama solo un modo, sei un vigliacco, perché a far bullo con tutto l'armamentario dietro, con 40 poveri disperati in mezzo al mare, ci sono buono pure io. Certo. Valla a facco Draghi. Certo. Bisogna sempre contro la minoranza, a me non mi sta bene che no, tu che è italiano. Quindi su sta cosa sempre bisogna sempre contro la minoranza, a me non mi sta bene che no. Però una cosa va detta, sto governo c'ha un avanzamento. Sì. Ci ha dato il primo ministro degli interni extracomunitario. La Padania fa parte dell'Unione Europea? Non saprei. No, non mi risulta. Non risulta. Quindi, cioè, è un avanzamento per i diritti civili. Il punk aggiunge caos dove caos non c'è. Questo è il concetto di questa sera, di questa notte, di questa festa. Ordine. Festa nostra. Però cercando di riprendere il filo del discorso che avevo, incredibilmente ho iniziato a fare un discorso quasi serio, però giustamente, cioè, non è serata. Non è serata. Dicevamo lotte spicciole che bisogna portare per difendere i propri spazi vitali. E c'è chi una resistenza l'ha fatta, la sta facendo, l'ha fatta per 30 anni in quel di Valsusa, e che come i vecchi partigiani ha messo lo zaino in spalla. E quindi da Torino Gavroche. Gavroche era il ragazzino di Vittor Hugo, dei Miserabili, che andava dietro le barricate, che ci sapeva fare, che impicciava cose, impicciava storie, ma che comunque nel suo milieu, nel suo ambiente naturale di degrado, di sottoproletariato, comunque teneva dritta la barra, insomma, non si faceva intimorire da nessuno. Quindi Gavroche, zaino in spalla. A proposito di barra dritta, ma nel governo attuale c'era qualcuno che diceva che la TAV si doveva fare? Mi pare di sì, mi pare. Non pervenuto. C'è una guerra in atto, c'è una guerra in corso, accettare o resistere, scegli il tuo percorso. Offerta di sviluppo, progresso industriale, una lobby, uno stato, un'occupazione militare. Un gesto di ACS, progetti di ospitato, blindati, cingolati. Che preparano il massacro, io che cosa?

di vetro. Sono metro della credine di fronte ad una forbice invisibile. Separo ogni mio simile che osserva da chi attraversa quella soglia. In quel negozio compra ciò che voglia. Sfoglia le pagine del libro dell'inuguaglianza e cogli la sostanza. La mia scelta di coerenza sta nei sogni dei banditi, nel dileggio dei divieti, nell'odio viscerale per via che mansueti. Sono un ladro e lo confesso, e con questo io senza legge rubo il nome di me stesso. Altri più scaltri di professione si spartiscono poltrone mai nel proprio nome, mentre la giustizia muore dentro una prigione. Mentre a scegliere per me c'è la banda di un massone. Ognuno da sé tragga la sua conclusione. Io pratico il saccheggio, io danneggio il carrozzone. Nero come il colore della mia bandiera. Nero vestillo per la gente che si schiera. Come come nero come il blocco che combatte sul cemento. Nero come il colore della mia bandiera. Nero vestillo per la gente che si schiera. Come come nero come il blocco che combatte sul cemento. Il fuoco che preannuncia la calata delle orde. Xunt Leone a 100 metri dalle guardie. Cavarbie, le idee che governano il mio mondo. Nel tuo mondo solo fiamme sullo sfondo. Affondo pensando che potrei cambiarti. Potrò indicarti traguardi che nascondono i miei sguardi. Troppo tardi, l'acqua arriva al collo. Io difendo il mio vascello. Teschio bianco e sfondo nero per vessillo. Uno spillo trafigge un elefante. È Davide contro il gigante. È il mio senso di giustizia e nemicizia permanente per il sole d'occidente. Trasportatore e complice, rimango un miscredente. Nulla tenente, padrone del mio mentre. Una scossa m'attraversa dal cervello al basso ventre. È questo che mi spinge, questo mi distingue. L'ultimo esemplare di una specie che si estingue. Nero come il colore della mia bandiera. Nero vestillo per la gente che si schiera. Come come nero come il blocco che combatte sul cemento. Nero come il colore della mia bandiera. Nero vestillo per la gente che si schiera. Come come nero come il blocco che combatte sul cemento. Nero come il colore della mia bandiera. Nero vestillo per la gente che si schiera. Come come nero come il blocco che combatte sul cemento. Nero come il colore della mia bandiera. Nero vestillo per la gente che si schiera. Come come nero come il blocco che combatte sul cemento. Sì, bisogna anche riprendere i colori che ci appartengono. Il nero che era il colore dell'anarchia, scippato come tante altre cose dai fasci da combattimento e poi dal fascismo, e che giustamente Jolly Roger, se nulla è detto, signor K, quanto ti pare il nulla corre con te. Jolly Roger si preoccupa di rammentare, anche in virtù di quelle che erano, sai cos'è il coraggio, invece le manifestazioni di piazza del periodo in cui uscì quella, quel pezzo. E sì, un po' più a nord, a Parigi ci stanno ancora. Certamente. Dà una certa soddisfazione vedere la polizia che scappa quando si trova davanti qualcuno che reagisce, non sono manifestanti inermi. ci piace, appuntamento al centro sociale, non siamo liberi di andare. Certo, sono cose difficili, nel senso che poi anche la politica in questi anni e l'espressione politica ha trovato dei modi contorti, controversi di manifestarsi e di esprimere i propri contenuti. Però allo stesso tempo significa che ci troviamo comunque, se non in una situazione esplosiva, perché non penso che sia questo il caso, però in una situazione di grande fermento, comunque di grande bollore interno, cioè sono tante tali le disuguaglianze, le contraddizioni sociali che... Sì, la differenza diciamo... però è una. A Parigi fanno le manifestazioni contro i ricchi e qualcosa ottengono. Certo. Noi in Italia facciamo le manifestazioni contro i poveri. E continuiamo a prenderci bastonate. Certo. Evidentemente sbagliamo bersaglio. Questo qui è ovvio. Ma è anche ovvio che i francesi, dalla rivoluzione francese in poi, hanno avuto ben chiara questa... Hanno tagliato la testa a un re per molto meno. So che succede lì fuori, sento sassi e scarponi, ma nessuno permettiamo che ci faccia male. La tua lama in fondo è piccola anche se è letale. Che sguardo scemo hai col coltello in mano, non lo trovi mai rispetto vero di un essere umano. E sento un freddo cane, mi sento sanguinare, pugnalato anch'io perché so quanto un fratello vale. Noi vogliamo altro, ma quelli hanno il veleno. Le asce di guerra le dissotterreremo. Fascio giù le lame, fascio giù le lame, fascio giù le lame, giù il coltello infame, fascio giù le lame. Giù le lame, chi è quel cane che va a coltellare nel sociale? Oh, è tutto vero, è tutto vero. Al posto del cervello quello c'ha un buco nero. È tutto vero, è tutto qua vicino. C'ha la molletta insanguinata nel giardino. La bestia è ancora qui e non si può sapere. Striscia lungo muri e strade di quartiere. La bestia è ancora qui e non si può sapere. Striscia lungo muri e strade di quartiere. Quando lo spirito è l'unico che non sa più fuerte. Pon el puño arriba cuando escuches mi canción, tú también puedes gritar. ¡Viva la revolución! Solo con revolución conseguirás que tus derechos sean los que son. Así que presta atención. Pon el puño arriba cuando escuches mi canción, tú también puedes gritar. ¡Viva la revolución! Pon el corazón en acción, tendrán que pedir perdón. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución, hermano! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución, hermano! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución! Elegí un mal día para dejar de rapear con rabia. Por eso en el micrófono es un árbol rapia. Si me cose la boca, rimaré con la napia. Mira, la sociedad está llena de suciedad, ¿me captas? Eso lo sabe hasta el papa. Yo creo que se pasan de la raya. Si nos atacan, vamos a responder con armas. Con las tripas del último cura. Vamos a ahorcar al último político sin conjeturas. El combatiente que soy ahora lo seré para siempre. Rebelde hasta la victoria siempre. Porque mi espíritu es el de un auténtico revolucionario. Que busca dignidad y orgullo proletario. Amor, justicia, verdad. Lucha armada, solo si empuñas un arma tu vida será respetada. Revolución, esa es la solución a los problemas que azotan la nación. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución, hermano! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución, hermano! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución! Mi grito de revolución sincero. El empresario azota fuerte el látigo contra el obrero. Nos hablan de crisis, lobos entre corderos. Jefe y político de la mano del embustero. Yo ser un siervo más de los del rey no quiero. La dignidad del trabajo se esconde en un vertedero. Vierto mis versos más severos, me altero. Defiendo derechos con disparos certeros. En algún lugar del planeta, en algún rincón, hay una tierra libre de cadenas y toda opresión. Donde ejercer tu libertad de expresión no te llevará a prisión. Donde la tierra es para el que la trabaja con tesón. Contra su privación de libertad, más implicación, apoyo a la libertad del pueblo frente a la unidad de una supuesta nación. Nos llamaban separatistas, pues aquí empieza nuestra pequeña separación. ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución, hermano! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución, hermano! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución! Soy la personificación de una estrella roja. Nunca obtendrá peces el que no se moja. Rajo, la roja igualdad se sonroja. Reflejo la tensión de una presión que nos afloja. Acción, reacción, reacción, acción. Evolución revolucionaria en cada expresión. Preso de un estado, prendo fuego a mi prisión. Propenso a pensar, piensa en tu mierda de pensión. Lucha bajo una capucha, yo quito al boli el capuchón. Lucho mucho, escucho. ¡Viva la revolución! Mis versos merezcan sanción. Empresario, opresor, dobrero, fatal atracción. Dita lo que te conviene. In the rap. Desde que naciste, ¿qué es lo que no ves? ¿Cuánto llevas luchando para llegar a fin de mes? Vivir arrodillados, prefiero morir de pies. ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución, hermano! ¡Viva la revolución! Insomma, questo fascismo di cui ci siamo liberati nel 25 di aprile del 1945, ma che in qualche maniera è riuscito a sopravvivere, infilarsi, infiltrarsi. Lo diceva Brecht. Ma quello che è più pericoloso poi di tutti non è il fascismo in sé, ma sono le condizioni generali che hanno portato il fascismo a prendere il potere. Delle condizioni che, come dici te, probabilmente già abbiamo superato in questa fase storica, almeno in questo paese e anche in altri paesi d'Europa, ma che comunque è, quando c'è un capitalismo che va profondamente in crisi, il fascismo si affermò in Italia negli anni 20, forme di autoritarismo si affermarono un po' in tutta Europa all'indomani della crisi del 29. Fascismo è il fallimento della moral suasion del capitalismo, nel senso il capitalismo ti racconta una serie di cazzate, ti dice se ti impegni, se fai il bravo, se lavori, ti prometto che quando non riesci a mantenere allora ti costringo, e viene fuori l'utile idiota, il fascismo è quello. Cioè, quasi una normale evoluzione socio-economica, insomma, di un aspetto che si guarda, Hildebrand aveva ragione quando definiva la differenza fondamentale tra fascismo e nazismo nel indicare il nazismo come un movimento in maniera oscena e perversa ma rivoluzionario, perché aboliva lo stato presente di cose della Repubblica di Weimar, mentre il fascismo è proprio nel suo intimo un movimento di estremisti conservatori, cioè di gente che tende con ogni mezzo a mantenere lo status quo. E questo al di là delle confusioni iniziali, cioè dei prefascisti, dei dannunziani, di robe che c'entravano molto poco. Dei nazionalisti, di robe che c'entravano abbastanza molto. C'erano le camicie azzurre. Sì, c'entravano anche poco con il fascismo per certi aspetti, perché erano più elaborazioni, diciamo, culturali di un'epoca particolare, che era quella dei primi del Novecento. Ma guarda, pare che D'Annunzio e Mussolini non si potessero vedere. Insomma, stiamo parlando proprio di orizzonti diversi, ma che poi furono sintetizzati, e forse quella fu l'unica capacità dei promotori dell'epoca, cioè di saper acchiappare, ecco, di poter inglobare alcuni aspetti dei ferventi, e sono quelle stronzatine che ti raccontano i ragazzetti di Casa Pound facendo un revisionismo storico alla loro maniera, insomma. Sì, sì, non conforme. E andando a così a riecheggiare, ma poi alla fine la conclusione è che li trovi appunto a Torre Maura, eccetera. Perché c'hanno l'omino bianco dentro il comune che li avvisa, tra l'altro. So contro il sistema, ma il sistema li avvisa. Allora, a sto punto Julian Cop, perché noi abbiamo un enorme... Leopoldo Mastelloni, no? No. Stiamo proprio su pianeti differenti. Julian Cop è un altro intellettuale, cioè non stiamo dicendo da tempo che vorremmo fare una trasmissione tutta dedicata a Julian Cop con compagni che ci possono aiutare in questo, e che è una cosa impegnativissima, perché lui scrive tomi su tomi, insomma, oltre che suonare, oltre che drogarsi, oltre che fare un miliardo di cose, oltre che scrivere di musica, oltre che farle sicuramente meglio di noi. Sì, assolutamente uno spirito libero, è uno spirito anche non circoscrivibile, sfuggente in ogni suo aspetto, però noi non possiamo esimerci dal fare una cosa molto semplice, cioè da mandare a Julian Cop in radio, che ci piace farlo. Un lavoro bello questo qui, quando i minatori, per lunghi anni i minatori inglesi si ribellarono alla privatizzazione delle miniere, che erano pubbliche da sempre, che la signora Maggie volle privatizzare, e questa fu una forma. L'unico capo di stato occidentale la cui morte fu salutata da una gigantesca festa di piazza, a cui partecipò il nostro Julian senz'altro, non so se materialmente, ma comunque la copertina del disco che hai letto prima, che ti ho fatto leggere, testimoniava quanta avversità, quanto odio potesse aver accumulato in tutti questi anni, tanto da voler dedicare un pezzo di copertina. E non solo lui, insomma, vista la piazza. Quindi The Sacrament of People, questo lavoro appunto scritto sull'onda delle grandi manifestazioni di quell'epoca, della resistenza operaia inglese, Julian Cop, questa si chiama Ain't But The One Way, cioè è l'unica strada possibile, e su questo siamo d'accordo, quella cioè della lotta per rimborcarsi le maniche, del controbattere colpo su colpo ad ogni avanzata che fa capitalisti e fascisti. Vai. Anche perché ricordiamoci una cosa, che dai carteggi che sono emersi, sono segreti, insomma chiunque li può vedere, parlando della Thatcher, che è dello stesso partito di Churchill, mentre Churchill non aveva nessuna intenzione di trattare con i nazisti tedeschi. In realtà i nostri partigiani pare che si precipitarono a fucilare Mussolini perché pare che a Londra qualcuno avesse intenzione di salvarlo. Certamente. Anche questo è un sì, è emersa questa evidenza. Anzi, a giustiziare, non a fucilare, a giustiziare. Esatto. E poi quella, diciamo, la giusta collocazione con la testa di sotto insieme a quello. E facciamo una ola a Jim Carrey che ha battibeccato con Alessandra Mussolini. Davvero, non dicendogli facevo. Rovescia la foto di un nonno così ti sembrerà che sta facendo la ola. Va bene, dai, allora giusto scherno nella festa nostra da farsi. Una risata lo seppellirà. Una risata che vedete. E Giulia Coppa che inizia con il testo di questa canzone dicendo e rivolgendosi ai governi e al governo conservatore dell'epoca di Margaret Thatcher: fascista. Chi gestisce l'illosco capitale che si chiama. Some enemies and step out of line. We need deadly assassin. We need to do it today, 'cause the greed inside the greed heads ain't ever gonna go away. Get yourself a good plan and get yourself a hitman. Work out a time span and aim for the headman, then lie low. Visto che non mi fai dei Leopoldo Mastelloni, a sto punto famoli in Abbat. Non è proprio la stessa cosa, però insomma li metterei su un piano un po' differente, però Nabat. Beh, Nabat non bestemmiano, Leopoldo Mastelloni sì. Nabat, l'hai da Bologna, per quel processo che dicevamo prima, insomma, di escalation, sindaci di Bologna, quella Bologna rossa, quell'Emilia rossa paranoica, tutto quello che ti pare, quel socialismo reale italiano. Regionale che prospero che insomma era l'Emilia Romagna, la Toscana, l'Umbria di quell'epoca, quella cintura rossa insomma che ha partorito Guazzaloga, il sindaco Macellaio, prima Cofferati e poi Guazzaloga, no, o il contrario, che... il contrario. Vabbè, insomma, dalla padella nell'abbraccio o viceversa, contrario. Quindi da capo l'hai da Bologna, socialismo o barbarie? O barbarie. Questa è barbarie. Questa è barbarie, sì. Venga per me, caro assessore, venga per me, primo cittadino di Benino. Ae, ae, ae, ae. Oh, 0649175 Onda Rossa. Insicurezza si chiudono frontiere, tieni mani defense. fascia e il monarca ci sferza. Insicurezza, insicurezza, ci si lascia dolcemente decollare la testa. Per la sicurezza, per le disagenza, sul mio star tranquillo come in una potenza. Mentre intorno a quella gabbia è sempre più stretta, mentre intorno a quella gabbia è sempre più stretta. Teneme qui a Fuggio, gli schiavi che spezzano le catene. Tutta questa sicurezza, tutta questa sicurezza, in sicurezza, violenza. Tutta questa sicurezza ti porta ovunque, ovunque, ovunque violenza. Never done, my children, and the war is never. devil won. The enemy is poverty, and the wall keeps out the enemy. We build the wall to keep us free. That's why we build the wall. We build the wall to keep us free. We build the wall to keep us free. 141 minuti, no, 1:41 dopo la mezzanotte, ci siamo, ormai siamo arrivati alla conclusione di questa lunghissima puntata per salutare sta maratona. La maratona proprio radiofonica folle, folle, perché non oserei dire senza capo né coda, però con un'emozione di fondo che è quella proprio che cerchiamo di far rivivere, che è proprio quella della liberazione, liberazione intesa anche come sollievo, come fine dell'incubo. È quello che noi auguriamo, anche di uscire da questo incubo odierno, magari imparando, magari cercando di capire sempre di più quel momento storico che è stato la resistenza in Italia, che ha coinvolto tante e tante persone diverse, di estrazioni diverse, che però in un certo momento ha saputo nel conflitto essere costruttivo, insomma, di un periodo che era senz'altro duro, ma appunto che si liberava di quell'incubo, e solo in quel momento poi si è appreso quanto questo incubo fosse profondo, radicato, orribile, che è stato il nazifascismo, il ventennio. Il saluto più importante va a tutti e tutte coloro che ci hanno ascoltato, ovviamente in condizioni di limitata libertà personale. Radio Onda Rossa, come al solito, riprende le sue programmazioni. Domani, sanando delle programmazioni, appunto, credo abbastanza stravolte, quindi non diamo nemmeno il palinsesto dal fatto che è un giorno di festa per tutti, e la festa della liberazione. Una festa d'aprile. Quindi con te penso ci vediamo fra 6 mesi, come è solito, ogni 6 mesi fai una calata in radio. O se no, quando passi dall'Audrey di Cambi vicino a dove sto io. Vabbè, io vengo da te, però considera che ci stanno degli ascoltatori numerosissimi, delle ascoltatrici ancora più numerose che ci stanno ascoltando, quindi ci diamo appuntamento a 6 mesi, fra 6 mesi. A 6 mesi, oh. O forse con questa cosa. Cosa che fa tour? Sì, no, questa sì, no, quest'altra cosa invece che dicevi in precedenza. Ah. Eh sì, se sì. Vediamo di incastrare tutti i tasselli e magari riuscire a partecipare un venerdì che non mi dispiacerebbe, perché poi io seguo anche molto le ore di religione. Sì. Una delle più intriganti trasmissioni della radio, un chiacchiericcio continuo che però spazia miriadi di argomenti. In realtà avrei capito che il mio modo di intervento è assolutamente quello coerente a quel tipo. La mia prassi è quella. Va bene, dai, un saluto, ripetiamo a tutti. E forse loro me lo mettono, Leopoldo Mastelloni. No, secondo me glielo dovrai. Guarda, se a Carlo gli dico che ha bestemmiato per la prima volta in televisione, ma potrebbe essere che va a ripescare la traccia. Qua no, né Leopoldo Mastelloni e né Fratello Metallo. Nemmeno Fratello Metallo. Fratello, guarda, è geniale Fratello Metallo. Io lo suggerisco a tutti, cercatevi Fratello Metallo e capite perché sono a 2000 anni che questi ci infinocchiano. E invece, appunto, noi nella festa di liberazione il saluto importante lo diamo appunto a chi non è libero, a chi non è libera e chi ha lottato per la libertà e è riuscita per sì a chi ha lottato per la libertà e chi è riuscito addirittura in condizioni di prigionia ad ascoltarci fino a quest'ora. Da paura, peccato non ci possono trillare, perché non è possibile dal carcere. Speriamo di averli fatti ridere. Speriamo di averli fatti ridere. Dai, è bello a tutti e a tutti. Il 1° maggio è sempre di mercoledì, se non vado errato, e non ci saremo, ve lo dico già da adesso. Buona libertà. Dai, e buon 1° maggio a tutti, festa del non lavoro, del lavoro, come preferite, di liberazione. La festa ai lavoratori. La festa ai lavoratori già la stanno facendo loro. Dai, ci rivediamo a maggio inoltrato, ci risentiamo a maggio inoltrato, dai, ce ne andiamo sotto la luna comunista, ovviamente noi. dancing tonight.